Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, un saluto, un buon sabato a tutti voi da Gigi Donelli al microfono, da Paolo Corleoni in regia. Partiamo da un versamento di 36 milioni di euro versato dai quattro di Visegrad, dunque la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, a favore del Trust dell'Unione Europea per l'Africa, un fondo per il grande piano di sostegno all'Africa, che però non basta a sciogliere il nodo che divide le due anime d'Europa sulla gestione dei flussi migratori. Sono soldi in pratica che i paesi dell'est si rendono disponibili a versare come segno di buona volontà e che dovrebbero andare a finanziare proprio la missione europea e quindi molto italiana in Niger sulle rotte che portano verso Libia ed Europa. Commento del primo ministro Gentiloni: per noi i muri e le chiusure sono sbagliate. Un concetto ribadito dalla cancelliera Merkel che dice: non posso accettare che ci sia solidarietà in molte aree ma in altre no. Questa solidarietà selettiva, dice dunque da Berlino Angela Merkel, è inaccettabile. Passi avanti invece nel vertice che si è appena concluso sul fronte della difesa comune. Dopo 60 anni di dubbi, incertezze e tentennamenti, 25 paesi dell'Unione hanno deciso questa settimana, ufficialmente, di perseguire la strada della cooperazione rafforzata nel settore delicatissimo della difesa. Nel 1954 i paesi fondatori dell'Unione non riuscirono a creare una comunità della difesa per via dell'opposizione della Francia. Questa settimana i Paesi membri hanno compiuto un passo che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell'integrazione europea. A giocare nella svolta è stata la scelta della Gran Bretagna di lasciare l'Unione. Per decenni Londra ha ostacolato passi avanti in questo campo. L'emergenza terrorismo è stato un secondo fattore a indurre maggiore cooperazione. I 25 paesi pronti a collaborare nella difesa hanno selezionato 17 progetti, 4 dei quali saranno guidati dall'Italia. Questi riguarderanno lo sviluppo di una forza internazionale di soccorso in caso di disastro naturale, lo sviluppo di una capacità per la sorveglianza delle aree marittime, la messa a punto di un centro di addestramento per le forze armate e infine la produzione di prototipi di veicoli di fanteria leggera. In un momento economico difficile, l'interesse industriale è anche un modo per incentivare una collaborazione che si vuole, in fondo, eminentemente politica. E questo era il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. E adesso cambiamo argomento. Due giorni fa il lungo faccia a faccia di Vladimir Putin con il suo paese, e non solo, 4 ore di domande e risposte su temi interni e internazionali. Nelle stesse ore l'ex segretario generale della NATO lo accusava attraverso le colonne della stampa. Infatti diceva: Rasmussen, il presidente russo Putin non è vostro amico, vuole usare l'Italia per dividere l'Europa e liberarsi dalle sanzioni. Questo dunque le affermazioni in un quadro che, ricordiamo, vede l'Unione Europea dal marzo 2014 imporre misure restrittive nei confronti della Russia e definite come una risposta all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina. I fronti anche all'interno dell'Europarlamento sono ben distinti, quindi Bruxelles, Strasburgo, con una maggioranza, diciamo per semplicità, antirussa su questo tema. Ma abbiamo deciso di dar voce allora a questi punti di vista e questa settimana sentiamo Stefano Maullo, che è europarlamentare di Forza Italia. Partiamo dal commento dell'ultimo leader sovietico Mikhail Gorbaciov a proposito dell'esclusione decisa nei confronti della squadra russa dalle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Ma guardi, secondo me ciò che ha detto Gorbaciov dà il senso di questo tragico errore, io lo definisco così, intanto perché Gorbaciov l'ha definita una tragedia, tale è il fatto di poter escludere la Russia dalla partecipazione ai giochi olimpici invernali. Credo sia un grande problema per lo sport, ma in generale per questa possibilità di dialogo che lo sport rappresenta. Allora farlo addirittura nei confronti di una nazione e non ai singoli atleti, io credo che rappresenti un'esagerazione di fondo. La notizia è stata ripresa ampiamente da tutti i principali canali radiotelevisivi, dalla stampa, ma credo che abbia dato anche il senso di una sorta di russofobia che così è percepita dai rappresentanti istituzionali russi. Questo non va nella direzione, io credo, di creare le migliori condizioni in un mondo sconvolto da tensioni per poter avere un buon rapporto con uno dei paesi più importanti. Ma la mia posizione è di un dialogo continuo con la Federazione Russa, soprattutto in un mondo dove la competizione è globale ed è per grandi aree geografiche. Allora poter pensare per l'Unione Europea di poter fare a meno della Russia e viceversa, naturalmente, io credo sia qualcosa di impensabile, perché consegneremmo questo grande, grandissimo paese alla Cina, all'India, alla Turchia, a tutti coloro che da questo punto di vista hanno bellemente bypassato il regime sanzionatorio imposto dagli Stati Uniti e avallato dall'Unione Europea. Se a ciò si aggiunge che poi esiste un aspetto anche quasi revanchistico da parte dei paesi dell'est, il blocco di Visegrad con in prima fila la Polonia nei confronti della Federazione Russa, io credo che questo debba essere assolutamente rivisto. A febbraio avremo l'occasione per poter dare una chiarezza di fondo rispetto a ciò che invece è costato in questi anni moltissimo all'economia italiana, soprattutto alle piccole e medie imprese, pensi al lattiero caseario, al mondo agricolo, al calzaturiero, che hanno perso un mercato importantissimo, un mercato di 180 milioni di abitanti e che avranno grande fatica nel recuperare le posizioni. La sua, ricordiamolo, non è la posizione dominante, ma quanto è, diciamo, di nicchia o piuttosto condivisa all'interno dell'Europarlamento? Guardi, la mia non è una posizione dominante, lei ha perfettamente ragione nel sottolineare questo aspetto, ma io credo che valga la pena di fare le battaglie in cui si crede, valga la pena di difendere gli interessi dell'Italia. Io sono qui per questo, non sono sicuramente per avallare tesi alternative al benessere e a ciò che serve al mio paese. Quindi faccio una battaglia che credo sia globalmente, trasversalmente, senza coloriture politiche, condivisa dalla gran parte dei parlamentari italiani. E dagli europarlamentari? Dagli europarlamentari evidentemente molto meno, ma io credo che sia una battaglia che valga la pena di fare anche a maggior ragione con ciò che è accaduto nel Medio Oriente. Basti pensare al ruolo, io credo, assolutamente incisivo svolto dalla Russia nella battaglia e nella guerra vinta contro il terrorismo internazionale in Siria. Basti pensare a una zona di influenza che io penso l'Italia debba continuare a richiamare con forza rispetto alle proprie tradizioni nel Mediterraneo e a ciò che sta accadendo in questo scontro interno al mondo musulmano tra sciiti e sunniti. Poter prescindere da una collaborazione con un grande, grandissimo paese, anche dal punto di vista della prevenzione del terrorismo, delle interconnessioni non semplicemente economiche ma anche geopolitiche in un'area straordinariamente importante per l'Europa, io credo sia sbagliato. E questo era dunque Stefano Maulu, lo ricordo, europarlamentare di Forza Italia. Settimana prossima sentiremo un parere che arriva senz'altro dall'Europarlamento, ma in una linea decisamente diversa. E adesso torniamo a parlare di Brexit. Questa settimana, tra i temi a margine di fatto del vertice europeo, si è sottoscritto quello che è il passaggio alla seconda fase della trattativa. Dunque una prima fase che si chiude, se ne apre una seconda che per molti versi rischia di essere ancora più complesso perché riguarda le regole del commercio. Il tutto mentre all'interno del governo britannico le divisioni, il peso di questa trattativa si fa sentire. Allora sentiamo cosa accade a Londra da Leonardo Maisano. La decisione del Parlamento britannico, che avoca a sé maggiori poteri per la Brexit, maturata mettendo in minoranza il governo di Theresa May, è la vera notizia di questa settimana nel braccio di ferro anglo-europeo. L'ok dei capi di Stato e di Governo arrivato da Bruxelles, che apre la seconda fase del negoziato con Londra, era infatti un passaggio scontato dopo il sì della Commissione, che è il negoziatore per conto dei 27. La trattativa entra quindi nel merito degli aspetti commerciali, la vera sostanza del divorzio fra Londra e Bruxelles. Da oggi a marzo potrà essere tuttavia definito solo l'accordo transitorio sulle regole che Londra dovrà rispettare per almeno 2 anni dopo il marzo 2019, data dell'uscita. Da marzo in poi si discuterà invece dell'assetto futuro e definitivo delle relazioni, ma sull'intesa pesa ora la parola di Westminster. I deputati moderati hanno guadagnato posizioni minacciando di imporre la loro visione di una soft Brexit alla trattativa, una visione che contempla anche l'ipotesi di partecipazione britannica al mercato interno e all'unione doganale. Vero contenzioso tutto interno al Partito Conservatore, che è tornato improvvisamente sulla via della separazione fra Londra e Bruxelles. Brexit, capitolo secondo, dunque, si riparte a gennaio su questo delicato fronte. Lo ricordiamo, il punto d'arrivo non è cambiato, quindi il marzo del 2019 sarà sicuramente questo che verrà, un anno davvero intenso da questo fronte. Grazie anche a Leonardo Maisano. Adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi ritorniamo insieme. Monitorare e gestire i costi dell'energia elettrica è una sfida cruciale per le imprese. ABB, leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, porta le soluzioni ABB Ability nelle aziende, che grazie alla digitalizzazione aggiungono valore alla supervisione e gestione dei consumi attraverso soluzioni in cloud o locali. Una competenza consolidata al servizio del futuro delle imprese. ABB. Let's write the future together. Europa, Europa. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, al microfono da Paolo Corleoni in regia. Dunque, l'agenda della settimana, segnato tra l'altro mercoledì scorso uno sciopero generale in Catalogna definito contro la repressione di Madrid e per la liberazione dei detenuti politici indipendentisti. Dunque una giornata di protesta che, vi ricordo, è il preludio a quello che ormai imminente, il voto in settimana, il 21. Infatti la Spagna va al voto un giovedì, sì, giovedì 21, sarà un momento importante. Radio 24 seguirà con il nostro inviato Sergio Nava tutti gli sviluppi di questa vicenda, che naturalmente è interna ma è anche delicata e importante per l'Unione Europea. E ora parliamo di economia. L'area euro sta assistendo ad una forte espansione economica, mentre le prospettive di crescita hanno mostrato un significativo miglioramento. Così giovedì il presidente della BCE Mario Draghi, aggiungendo tuttavia che resta necessario un livello molto forte di stimoli monetari della BCE. La Banca Centrale Europea non abbassa la guardia, lasciando come previsto i tassi invariati e confermando il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli varato per sostenere l'economia, pur se dimezzato a partire da gennaio. Francoforte ricorda che lo stimolo monetario è ancora necessario, nonostante i segnali di ripresa e di rafforzamento dell'inflazione si stiano facendo più forti. Risks surrounding the euro area growth outlook remain broadly balanced. La dinamica della crescita e i segnali che arrivano dagli indicatori di fiducia, dice il presidente della Banca Centrale Mario Draghi, potrebbero portare sorprese positive in termini di crescita nel breve termine. Oggi, aggiunge, siamo più fiduciosi di due mesi fa sui target di inflazione. Nonostante questo, la BCE conferma che i tassi rimarranno a questi livelli ben oltre la fine del periodo di acquisto di titoli, prevista per settembre. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di innovazione tecnologica. In California, sappiamo tutto, ci sono molti centri di ricerca e sviluppo, ce ne sono alcuni legati ai colossi dell'high tech della Silicon Valley, tra cui Google X, Waymo, Intel, Tesla, insomma nomi importanti che fanno a gara per essere i più innovativi. E in Europa cosa succede? L'UE su questo fronte ha stanziato decine di milioni di euro nel progetto L3 Pilot per sviluppare progetti sia sul piano della sicurezza stradale informatica che su quello etico normativo, dove restano però da sciogliere alcuni nodi giuridici seri come la responsabilità in caso di incidente. Forse il grande nodo di tutta l'automazione, la guida automatica e appunto tutti questi temi connessi. Ne abbiamo parlato, la nostra Silvia Bernardi lo ha fatto, con l'europarlamentare Massimiliano Salini. Oggi siamo con l'europarlamentare Massimiliano Salini, che è da poco rientrato da un viaggio in America, nella Silicon Valley, nel cuore pulsante della tecnologia abbinata ai veicoli. Allora, che cosa si è portato a casa da questo viaggio? Ho portato a casa uno stupore grande per la incredibile propensione all'innovazione che ho visto raccontata da tutti gli ambiti visitati: Google, Uber, Airbus, Intel, Mercedes, Renault, tutti soggetti che a vario titolo, o come sviluppatori, innovatori e gestori di dati, o come tradizionali costruttori di automobili, Tesla inclusa, eccetera, tutto quello che costoro stanno facendo in ordine alla sfida più avvincente nel settore della mobilità, che è quello appunto della mobilità attraverso la guida autonoma. Tesla è sicuramente uno dei nomi che in Italia almeno sentiamo nominare più spesso. Questo però, rispetto agli altri nomi che ha citato, ci dà la misura di quanto ancora forse siamo lontani dal grado di evoluzione tecnologica degli Stati Uniti. Allora la domanda è: com'è in grado di recepire l'Europa questo grado di evoluzione tecnologica? L'Europa in questo momento è lanciatissima. Abbiamo un grande progetto che coinvolge 13 case automobilistiche. Il nome del progetto è L3 Pilot ed è finanziato per 36 milioni di euro dalla Commissione europea. Il progetto nel suo complesso cuba circa 68 milioni di euro, è guidato da un grande gruppo tedesco, ma sono coinvolti anche gruppi italiani ed anche l'Università di Genova. È un progetto che affronta due tipi di criticità. La prima è quella tecnologica, sulla quale tutti sono assolutamente in battaglia, dall'America all'Europa, a tutto il mondo direi. L'altro tema su cui il L3 Pilot deve lavorare, perché in Europa abbiamo qualche complicazione di carattere giuridico, è il tema della sicurezza, il tema dell'attribuzione di responsabilità, perché i sinistri si vuole fare in modo che praticamente si annullino con queste nuove tecnologie, ma è impossibile prevedere un mondo perfetto nel quale non succeda più nulla di grave. Certo, quindi il problema sarà poi la responsabilità a chi sarà imputata in caso di sinistro e di incidente. Esattamente, quindi il tema è fare un progetto che da un lato sviluppi il tema tecnico e dall'altro il tema giuridico. Un di cui di entrambe di entrambe le aree di sviluppo di questi progetti è la grande partita della sperimentazione, cioè dove fare i test, dove e come, perché oggi dal punto di vista giuridico negli Stati Uniti è possibile fare test su strada sulla guida autonoma e lo si fa da qualche anno. In Europa non è consentito. Si sta tentando di studiare un quadro di revisione dal punto di vista giuridico che consenta in tempi ragionevolmente brevi anche di testare su strada in condizioni di perfetta sicurezza queste nuove tecnologie. È una grande sfida. Dal 2018 all'Italia sarà ridotta di un ulteriore 3% la quota fissata per la pesca del pesce spada. È stato deciso a Bruxelles. La quota fissata attualmente per l'Italia è di 3.736 tonnellate in virtù di un piano pluriennale di ricostituzione dello stock. Sarà dunque ulteriormente ridotta. Sul piede di guerra i pescatori, che lamentano l'assenza in trattativa a Bruxelles del ministro dell'agricoltura Martina. Come spiega al microfono di Cristina Carpinelli Paolo Chiozzo, presidente di Federcopesca. Sentiamo. Nella trattativa che ha tenuto la Commissione in sede ICCAT è riuscita a portare a casa per tutta l'Europa le famose 7.000 tonnellate. Poi in realtà però nel ripartirle negli Stati membri del Mediterraneo l'Italia è stata penalizzata con oltre 500 tonnellate. Allora vengono inserite delle quote, a queste quote viene fatto un ulteriore taglio penalizzante per la flotta maggiore del Mediterraneo. Questo non ci sembra una cosa corretta. Ecco, ma perché? Qual è stata la spiegazione che hanno dato questo taglio di quota? Ma credo che una politica tenuta all'interno della Commissione dai nostri colleghi pescatori spagnoli e forse francesi, che avendo chiaramente meno quota dell'Italia abbiano cercato di far pesare a chi ne ha di più quota un unico taglio di 500 tonnellate. In realtà è vero che abbiamo più quota di tutti gli altri paesi europei, ma è altrettanto vero che abbiamo anche molte più imbarcazioni. Ieri il governo, a mio avviso, avrebbe fatto una gran bella figura con i nostri pescatori italiani, ad essere presente al Consiglio dei Ministri e dibattere quanto la Commissione ha deciso. Quando non si è presenti si ha sempre torto. In particolare qui si colpisce anche una zona dell'Italia che già è in grave difficoltà, quindi tutta quell'area del sud della Sicilia. Si stanno organizzando i pescatori siciliani, che sicuramente saranno i più colpiti da questa decisione dell'Unione Europea? È chiaro che ci aspettiamo delle manifestazioni, anche se vogliamo dure, ma noi saremo con loro, al loro fianco, perché riteniamo che abbiano pienamente ragione. Ed ora, in conclusione, vi parliamo di un progetto che riguarda la cura della SLA, ce ne parla Laura Cavestri, e riguarda un finanziamento alla ricerca che è stato varato dalla Commissione Europea. L'ospedale Humanitas di Rozzano, provincia di Milano, sarà coordinatore di uno studio clinico internazionale per sperimentare un nuovo farmaco contro la sclerosi laterale amiotrofica. Il progetto, che ha ricevuto l'apprezzamento dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, è risultato essere il primo su 127 partecipanti e riceverà circa 5,6 milioni di euro dalla Commissione Europea per portare avanti lo studio. Questo finanziamento, commenta Alberto Albanese, responsabile della neurologia prima di Humanitas e primo ricercatore dello studio, è un segnale molto importante per la ricerca e conferma il ruolo primario dell'Italia nella ricerca scientifica neurologica. Il progetto di respiro europeo ci consente di lavorare in maniera ampia e condivisa per sperimentare un nuovo farmaco contro la SLA, nella speranza che i risultati finali siano positivi e possano davvero cambiare la storia di questa malattia così drammatica. Lo studio, in particolare, nasce da un primo lavoro esplorativo pilota condotto dal professor Albanese su 60 pazienti in tre centri, Milano, Napoli e Palermo, trattati con un farmaco derivato dagli acidi biliari. I risultati hanno mostrato un rallentamento di circa un terzo del processo degenerativo, consentendo un prolungamento della sopravvivenza dei pazienti. Laura Cavestri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto per questo appuntamento, questa puntata di Europa Europa. Vi ricordo la nostra mail europa@radio24.it. Un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Paolo Corleoni in regia. L'appuntamento con Europa Europa è per sabato prossimo alle 12:30. A presto!